Sare tu e chi non te lo dice acqua, acqua i ma non capivo che non si assassino però non ho smesso un attimo. Sì, io sono rientrato in questo momento, ho acceso tutto perché stavo ritirando una cosa lì da un robottino di Amazon e sta sempre piovendo. Sai che è già ora di chiudere anche i cusi, come si chiamano, qua la serranda. Ah, io ho il portellone già, ho già chiuso, volevo uscire fuori, tra il bar, già chiuso tutto, ho lasciato solo i sportelli, il portellone dall'altra parte, aperti, e tanto c'è neanche più luce, quindi cosa non fa niente. Infatti c'è un umido, cavolo, micidiale. Sai cosa ti dico? Che adesso accendo anche il riscaldamento. E io lo spento 10 minuti fa, che c'è troppo caldo. Adesso lo accendo verso le 9, che mezza 9, c'è troppo caldo. E mia moglie era... Cos'era? Accenditi. R2 alfa. No, R7 alfa. Anche R7 alfa fa così. C'è qualcuno che sta accettando. Scommetto che arriva forte. Però non mi ha detto ancora se ricevi... Se ricevi, come si chiama, l'imbara, che adesso è più sensibile, il l'RU1. No, UHF, Gianfranco, non ne ho, c'è solo quello in digitale, no, non mi interessa, no. Ho messo giusto le V così, per magari fare qualche chiacchiera in diretta così, e per ascoltare... Tre punti ci sono attivi, l'R0, l'R7 alfa, l'R2 alfa, basta. No, è già troppo che ho quello acceso. Mi interessa che fanno lui. Speriamo che Roberto ci metta rimedio. Se no io qui parlo con Muro. Parla con me. Mi piace molto stare, capito? Però spiegato, no, io sono affetto io me stesso, le cose che ho detto io le ho fatte, no, non me la tutti. Non mi interessa più la banda amatoriale. Niente, mettendo così le V, mi possiamo fare qualche prova, qualche due chiacchiere. Possiamo farlo anche in diretta. Ci spostiamo e parliamo in diretta come si faceva un tempo, visto che. Mi sembra che poca gente è rimasta in diretta 525, non lo so. Sono tutti 27, se continuiamo così. Dato che è l'unico posto in cui c'è il ripopolamento, cosiddetto. Tra poco diventiamo, ci vogliono fare razza protetta, quindi non ci può toccare nessuno. Ah, non so se è una coincidenza, ma comunque nel periodo in cui io non stavo frequentando la 27 c'era pochissima gente, pochissima, diciamo quasi nessuno, nel momento in cui ho ripreso un po' di più del normale, che ci sono anche già troppo, bisogna che mi dia una calmatina di nuovo, ho ripreso la gente a modulare, ripeto, quasi sia una coincidenza, ma... visto che sono sempre stato un trascinatore, non lo so, vediamo se continua. Comunque io te l'ho già spiegato, se c'è gente dove posso fare due chiacchiere mi fa piacere, diversamente non me ne ha fatti nulla. L'inverno due chiacchiere si può pure fare, non è che ti ne farà la mazza, dai. tanto non c'è niente da fare, cioè perlomeno tu di lì c'è poco da fare. Io qua meno male, adesso ho agganciato un hard disk che mi è arrivato poco fa, sono andato infatti di lì a ritirarlo, è entrato uscito. Amazon è un sistema micidiale veramente, pensano a tutto. E l'ho preso sempre di quelli abbassato subito, così tento di recuperarmi un portatile che è molto mandrone ad avviarsi, con questo dovrei avere almeno il doppio o il triplo di velocità. Io sai, stai parlando con uno che non le comprende un del computer, non mi sono mai appassionato al computer, ai telefonini, a queste cose qua. Io vivo un mondo particolare, sarò diverso dagli altri, ma non è la mia attività molto. Mi ho già chiamato la Wind, appunto l'ho venuto a fare loro, invece sta piovendo, perciò per fare quel lavoro che ti ho detto. Da gestire noi direttamente il ponte Caliccio, infatti l'impresario è d'accordo a montarlo, lo montiamo su nella collinetta dove c'è la prima villetta in alto, montiamo lì, capito? Allora, adesso vediamo se cambia il tempo, vediamo cosa vogliamo fare. Dobbiamo mandare una squadra a fare sopralluogo, a fare delle misurazioni, non so. Facciano loro. Allora può darsi anche che mi riattivo il computer, insomma la DSL, tutte cose, ma così se la linea va e viene, non ho già problemi col telefonino, figurati se mi metto a spendere quattrini, ma. Beh, stiamo parlando di frequenze alte comunque, penso che Linkem, quella che c'è al tuo vicino, lavora a 3 giga e quindi rispetto a quel paletto che ci hanno messo le serve un metro, tu lo sai, no? Così era anche per i 1200. Se un metro può fare veramente differenza, fa dal giorno alla notte, quindi magari quello lì basta che se lo sollevi di un metro e riceve stabile, che è una meraviglia. Il segreto di quelle frequenze è tutto lì, in alto 6 è più segnale ricevi, perché è proprio ottico. È così. L'impresario c'è la massima disponibilità, ma infatti ecco, un pochino prima di portare via tutto laggiù dal cantiere, ci sono delle torri, delle cose che possono servire, capito? Con lo scavatore fa i blinti, fa tutto lui, e mettiamo un traliccio, cosa fai? Mettiamo un traliccio lì proprio su, nella collinetta dove c'è la prima villetta, dove c'è quello che c'è a Link, che però anche Roberto, appunto, si chiama Roberto questo, a volte mi ha detto che ha problemi, quindi non è detto che la linea sia perfetta, vabbè, il palo che ha messo è una gagliarda comunque. Una volta che poi mettiamo il sistema nuovo, allora sarà sicuramente diverso. Ma non ho capito se devo mettere una cella Wind, in tal caso fa tutto la Wind e non ci fa mettere mano a nessuno, perché fa anche un piccolo recinto, oppure che se voi mettete un traliccio a disposizione del primo che viene, ecco. No, noi prepariamo tutto il traliccio, lo vogliono, intanto vengono a fare un sopralluogo, no? Tipo come stavi facendo tu l'altro giorno con Iliad, loro vengono a fare un sopralluogo, vedono un po' il punto esatto dove si può montare il traliccio e poi fanno tutto loro, noi però dobbiamo darle il punto di riferimento con il sistema già pronto, poi loro vengono, infatti installano la cella loro, da gestire noi come in quattro praticamente, però la montagna la fanno loro. non lo so, punto di domanda. Loro già non hanno problemi, hanno portato il segnale lì, si mettono una cella, però non lo so. Non lo so neanche io, quello che mi hanno detto ti sto dicendo, perché ho proprio, me ne sono occupato io con Roberto, questo mio vicino, e quello che mi hanno detto ti sto dicendo, adesso ecco, appena cambia un po' il tempo andiamo a fare il sopralluogo con i tecnici e poi vi diamo un referto più dettagliato. Dove sistemare la qualificazione, sistemare tutto, poi ne veniamo e montiamo quello che dobbiamo montare, capito? Tutto qua. Questo è quello che hanno detto e questo è quello che ti sto dicendo. Si può favorizzare quello che ti prende, non lo so, io non intendo già, non so cosa dirti veramente. Perché non so se poi. Non so che poi andasse a finire come al solito, no? Che tu paghi una sparata per avere magari 50 giga che servono a ben poco a quei prezzi, oltre che per fare il lavoro a gratis, tutto lì. Noi abbiamo chiesto a loro perché il segnale sembra che sia, noi abbiamo già fatto le prove con loro, siamo con team, nonostante io non capisco, cioè siamo a vista con Osero, ma a Osero c'è il ripetitore Vodafone oppure no, perché io non capisco perché il segnale sia così basso quando io Osero lo vedo tranquillamente, cioè vedo tutto il paese blu. Perché evidentemente le antenne sono puntate verso l'interno, quelli sono pannelli, sono molto molto direttivi, quella zona non gli frega niente, quindi ovviamente se da Usilo, poi dipende anche se nell'altura, se in basso, se all'interno del paese o così via, ma se da Usilo rispetto a dove sei tu, ti puntano un pannello, te ne entra anche dentro casa il segnale, anche sotto nel cavidio arriva, capito? Non è questione di fare un traliccio lì, il traliccio lì te lo faccio quando sei in un fosso coperto da montagne, come possono essere altre zone dove sei tu, che c'è un mio amico che è proprio una penitenza a ricevere il telefono perché è in basso, però quello è un fosso, tu non sei un fosso, quindi vedendo Osilo basterebbe mettere un pannello rivolto verso di te, non più nemmeno ne mettono tanti su questi ponti, e radia verso di te e tu chiuso, finito il problema. Certo dipende dai vari gestori, ma chissà che non ci pensi anche Iliad è maledetta, te l'ho fatto vedere, io c'ho Iliad, è molto ben coperto in tutta la Sardegna, sta dando punti a tutti, a parte la velocità che non è neanche da paragonare agli altri, perché sai, come al solito la Sardegna è anche l'ultima ruota del carro in tutto, Non so, però infatti volevo proporre anche Iliad, adesso vediamo, tanto non è che noi abbiamo chiesto un preventivo, abbiamo chiesto delle cose particolari dove loro sono offerti a venire a fare la sopralluogo. Dal momento in cui sparano quello che devono sparare, cosa pensi? Noi siamo fissi. No. Andiamo su un'altra compagnia sicuramente, adesso vediamo già fatto, perché ti ripeto, è tutto in ballo, dobbiamo aspettare che vengano loro, facciano sopralluogo, dicano la loro e poi lo diciamo la nostra, tutto qui, capito? Perché in cantiere c'è tutto il materiale per poterle dare tutto pronto a chiunque ci faccia l'offerta valida, capito? Quindi no, non abbiamo problemi a scavare tutto il terreno nostro, tutta roba nostra, quindi non ce ne frega niente. se io fossi stato anziché dove sai che sono, che posso far entrare lo scavatore, la pala e spianare tutto fino a 3.000 metri. Però lo lascio così perché non me ne frega niente. Ma se io fossi stato su dove c'è quello che c'era appunto l'Inter, lì io avrei già fatto una cosa diversa per i fatti miei. Ma purtroppo sono molto più in basso rispetto a loro, quindi non ce l'ho il segnale che c'hanno loro, nel modo più assoluto. Perché io se vado con una a casa sua, che sono già stato parecchie volte, con il mio telefonino Vodafone, prende benissimo anche dentro casa, mentre se io scendo giù a casa, che evito la differenza che c'è, mi manca il segnale, cioè prende non prende, capito? Ma tu hai visto anche il mio che riesco a navigare abbastanza velocemente. È vero che è fuori dal cancello, però insomma, tieni presente che il telefonino non ha antenna, perché a un certo punto con le condizioni avrei messo un micro ripetitore di quelli omologati, quanto costa? 300 euro, 400 euro. Ma avrei dato il segnale proprio di tutti i gestori a tutti, senza stare lì a girarci il pollice, capito? Ma sarebbe arrivato fondo scala. Il tutto sta che sia un coso omologato, perché ci sono i ripetitori di segnale, quelli che mettono sotto le gallerie ad esempio, eccetera, dove se no non telefoni neanche a palla. Quello è la cosa principale, capito? È quello che ci facciano capire, ci facciano sapere, perché è inutile parlarne, poi fatti e parole, cioè parole e fatti niente. Ma questa cosa è già iniziata da quest'estate. Ogni volta che noi telefoniamo o che io telefono, o che telefono Roberto per sapere notizie, sì, stiamo organizzando per vedere, fare, predisporre, però cazzo non ce ne vede nessuno. Beh, c'è stato un break, vediamo se era per noi, avanti break, Gianfranco da Sassari, e Torre di Consolo da Sassari, avanti. Ok, non lo sento più, ma ha sembrato di sentire un break. Come diceva Silvestro, mi era sembrato di sentire un break. Cosa ti volevo dire? Sì, è così. Guarda, ma io ne ho sentito tanti, anche questo mio collega ha chiamato la Link, mi ha chiamato quegli altri, cioè, tutti vanno lì, si mettono sul tetto seduti, non prende, arrivederci, grazie. Ma sembra, guarda, sta diventando un problema, non c'è gente che fa le cose come vanno fatte. Cata, magari a quelle frequenze ci metti un metro di paletto, cata, e ti arriva il segnale fondo scala. Lo stesso era per la televisione, questo non prende neanche la televisione, praticamente, no? E sono andato io, ho detto, ma mettiamo un metro più in alto sto palo, ma mia moglie, un metro, cos'è un metro? Un metro e mezzo, messo un metro e mezzo a prendere tutti i canali, perché prende in pieno Monte Oro, perché sono frequenze molto, tu lo sai, no, ottiche, basta che ti spunti l'antenna un po' sopra la collinetta, fatto a posto. Questi domani che se la prendono quella cosa, ma così per tante cose, che c'è gente che non è esperta, che lì solo per prendersi lo stipendio non ne frega niente di andare lì a metterti un paletto, una prolunga, non è come noi che mettiamo tutto quello che ci interessa con puntiglia, con prove, quelli 10 minuti, non prendo, non c'è campo, arrivederci. Un casino, avanti break. Caro, tutto bella? Sì, Carlo, infatti io avevo il dubbio che fosse un break poco fa, però evidentemente poi sei entrato in zona d'ombra, magari, e non ho sentito la risposta. Comunque adesso ti sento, e rispetto a stamane, che c'era molta propagazione, adesso stai andando bene. Non so se a me mi senti, comunque presumo di sì. A te ancora, Carlo. Sì, qua sta arrivando abbastanza bene, più che comprensibile. A Claudio sicuramente arrivi anche più forte. Riprendi, Claudio. Sì, questo è il caso. No, ti sento benissimo, infatti ti ho fatto entrare subito, non c'è problema. La torre è caduta, ma ancora siamo in piedi praticamente. Siamo diventati come la torre di Pisa. Pensavo peggio da qua, ma essendo molto alto anche nella vallata riesco ad avere degli ultimi segnali con questa antenna veramente. Avanti Carlo, quindi stai rientrando a Sassari. Cappa, molto bene, sì, segnale che oscilla tra il 3 e il 5, a volte scende anche sotto il 3, comunque abbastanza comprensibile visto che sei in movimento, perciò non ci sono problemi da parte mia. Avanti Gianfranco. Sì, Carlo, dimmi le condizioni di lavoro, di potenza e di antenna soprattutto, che sono curioso perché io provo qua, non ne faccio mai, so solo che col portatile diciamo all'aeroporto non ho problemi, ecco, col gommino. C'è 4 watt in macchina, confermi? E l'antenna, che antenna è? Di quelle lunghe o di quelle corte e corte? Ho capito. Quindi, claro, dai, non ci possiamo lamentare. E siamo in AM, in FM sicuramente ci sentiremo molto più pimpazzi, perché rende di più. Riprendi tra là. K, no, ma arriva benissimo Carlo, non ci sono problemi, riesco ad ascoltarlo molto bene, senza, poi non ho un filo di QRM, nonostante stia piovendo, scarica elettrostatiche, niente, sto andando con la mantola, non sto andando con la gestora, sto andando con 430, il microfono della Donis, e l'antenna la mantola. Quindi nonostante stia piovendo sta facendo miracoli, oggi non ho QRM, diversamente ho un sacco di QRM con questa antenna. Avanti Carlo, dove sei arrivato? KK, ho capito, uscita bancaria, molto bene. C'è stato un break, avanti. Claudio, secondo me stai uscendo troppo forte. Troppo forte in che senso? Di radio, non ho toccato niente. A quanto faccio a capirti? Io non so come ti ascolta Gianfranco, ma io ti ascolto tutto come abbi il macchinino troppo alto. C'è il baracchino, io non so quanto come ma niente, non lo so. Guarda se c'è qualche filtro o qualcosa, non lo so. Come mi senti, Gianfranco, chiaro? È sempre lo stesso problema di ieri, no, che ti dicevo. Che se parli così tranquillo capisco bene, ma se per caso parli più veloce inizio a avere difficoltà. E quell'effetto rimbombo di cui parlavamo ieri, no? Vabbè, ma deve essere rimbombante la modulazione, non capirmi come è trattalino. Boh, non lo so. Io non ho toccato niente. Non lo so, Natalie, questo microfono è da 12, è a 2, a 1 e mezzo, so. L'ho abbassato appena appena, ma non ho toccato niente, io sono abituato a non toccare niente, soprattutto quando va tutto bene. Ma forse è il macchinino dell'apparato che ti ha alto. Ah, boh, non so, adesso metto le cuffie al controllo. Sempre manca. Una volta, anche Gianni l'altra volta, no, questo paracchino stavo usando, dice che mi sentiva troppo forte. Perfetto. Carlo, dove sei arrivato? Ti sento perfettamente, non ci sono problemi. Sto imboccando praticamente l'Alghero Cagliari, l'ingresso via l'Italia. Avanti, Gianfra. Sì, anche io lo sento. Adesso appena è su lo sento anche meglio. Perché di tutta quella strada ho fatto la telemetria e quindi fino anche dal rifornitore dove era, di lì, anche con i portatili, con il gommino dentro la macchina, in UHF passa tranquillamente. Quindi anche in 27, dai, adesso, anche se è un veicolare, si riesce a sentirlo. Adesso vediamo un po' com'è quando ha fatto la salita e si mette sulla camionale, che è un pochettino più alta anche. Vediamo un po'. Tu Natalino lo senti a Carlo che si sta mettendo sulla camionale dalla strada di Alghero? Natalino non c'è. Riprendi Carlo. No, sto disturbando, non posso più parlare, dai. Natalino si sentiva bene prima. Riprendi Claudio. Sì, cappa. Ok, molto bene. Natalino stai disturbando come mai stai disturbando. Gianfra, fai compagnia un attimo a Carlo che mi sposto di canale, che mi regola un po' questa radio, cioè secondo me è troppo alta, vedo un po' di abbassarla, però io se non mi ascolto non riesco ad abbassarmela, me la faccio in cuffia e poi vediamo. Ok, ti lancio il cambio, Gianfra, arrivo subito, mi sposto di canale. Ok, controlla magari se è anche in frequenza bene, che non sia dovuto al fatto che può essere magari fredda e si è spostata un pochino. Vedi un po'. Carlo, adesso arrivi, come ti avevo preannunciato, ancora più forte, quindi è più chiara. Ehi, Gianfra, io adesso vedo la città, praticamente sono dove c'è il serbatoio della Medea sulla destra, sto iniziando la discesa, vedo diciamo la città, quindi è ovvio, sono anche abbastanza in alto qua che mi sentiate un po' meglio. Buonasera Natalino, se mi ascolta, prima l'ho sentito, non so se sia rientrato, avanti Natalino, se ci sei. Natalino non può riprendere perché sta disturbando i vicini a quanto pare. Di lì c'è da andare con una ruspa sul tetto e toglierne tutta quella ferraglia che c'hanno, rugginosa. Ah, ho capito, c'ha problemi del genere, allora è un po' un casino, insomma, pulizia e magari mettere qualche cavo un po' più performante anche, magari sono cavi datati, non lo so. Comunque, niente, io adesso sono quasi arrivato, sono sul cavalcavia prima della specie di galleria di sottopassaggio che c'è prima di Via l'Italia dello svincolo. Sì, ma quindi hai fatto già Monteoro, no? Adesso sto proprio per iniziare il cavalcavia, dove c'è quella specie di tunnel illuminato. Sono sulla camionale e sto per imboccare Via l'Italia. E allora stai correndo parecchio, caspita. Avanti, Claudio, fatto? Sì, secondo me è tutto a posto, no, Gianfranco, la radio era al centro assistenza, è stato messo il filtro AM, è stato fatto un grande lavoro, è perfetto, no? Se ti sposti di canale non mi senti, magari è più fuori l'altra, ma questa è perfetta. E così questo microfono, non so, ho provato a controllare, però è così, è ottimo. La modulazione è la mia, non ha nessuna distorsione, tutto qua. Non lo so. Ci vorrebbero delle prove più accurate, evidentemente. Dunque sotto le gallerie, quindi per un po' ci perdi sotto le gallerie e poi di nuovo appena esci ci risenti. A me non lo so se mi perdi perché la galleria ce l'ho di fronte praticamente. Io ti ho sentito anche un attimino qua, si sta sovrangolando a destra e a sinistra. Chi è che chiama sotto adesso? Scatto, vi ho detto che stanno modulando Mario e Eugenio, un attimino vi facciamo entrare. Sì, anche tanto non l'hanno passato perché di qua arriva fortissimo Carlo. Avanti, chi vuole entrare? Sì, ero io, Otto, avanti, chi stava cercando promotore? Si ho sentito sotto promotore. Sì, ma oggi state attenti, cioè, stavo modulando Carlo, prima si è messo Mario, poi tu hai risposto a Mario, così non si capisce un cazzo. Una alla volta, si becca, si aspetta un attimino, se c'è bianco vuol dire che c'è uno che sta modulando, c'è Carlo in macchina dentro il sasso e lo avete perlomeno, a tu perlomeno me l'hai sovramodulato, mentre Mario no, ecco. Allora, buonasera a tutte e due, una alla volta, avanti Mario. C'era un par di palle. Io non lo sento se sto parlando. Non deve succedere, Mario, non devono succedere queste cose. Bisogna breccare un attimino, quando c'è pausa, vuol dire qualcuno sta parlando, non è che Gianfranco stava parlando da solo. Abbiate pazienza. Piano piano. Ok, avanti Eugenio. Buonasera a tutti, ma se parla col portatile a Sassari noi lo sentiamo, abbi pazienza. Se si mette a parlare col portatile in macchina, buonanotte. È normale che succeda sulla modulazione. Ma se c'era bianco, vabbè, comunque. Tanto non è con portatile in macchina, con un baracchino normale, è chiaro che voi non lo sentite. In macchina, no? E noi abbiamo sentito da Alghero fino a Sassari. Non lo so, vabbè, comunque. Vabbè, così Carlo, per te il cambio, poi andrei per Gianfranco, è entrato Mario da Porto Torres, che arriva molto basso, oggi non so perché, e Eugenio da Porto Torres avanti. Buonasera Mario, buonasera Eugenio, l'ho sentito Mario, non l'ho sentito invece, comunque io sono arrivato diciamo all'ingresso di Sassari, sono dentro la città e sto per svoltare verso via Milano e tra un po' mi devo fermare perché devo andare in via Betta qua vicino e faccio QRX e poi ci sentiamo più tardi quando arrivo a casa magari. Grazie comunque della breve chiacchierata Claudio, Gianfranco, saluti Eugenio, Mario se mi senti a più tardi, grazie. Ok, molto bene Carlo, sentiamo allora dopo. Buon QRX e buon tutto quello che devi fare. Il cambio per te Gianfranco, vai a girare. Sì, ok, ciao Carlo, a più tardi allora, quando hai finito le commissioni. Sempre bene comunque. Vediamo un po' Eugenio, buonasera, ben ascoltato. Com'è lì la situazione? Piove immagino, no? Cioè com'è? Sì, non mi dire che non mi senti. Sì, basso ma ti sento. Sì, basso ma già ti sento. Qua piove. Anche qua non vuole smettere, sta piovendo sempre. Io Mario non lo sento, evidentemente è troppo basso, provo a rilanciare il micro. Che figata la gru che ha detto ieri Roberto! Soprattutto antenna, perché non riesco a ascoltarti, non ho capito se a Balai arrivavi sempre bene, mi stai arrivando a Santiago 2 in mezzo al QRM, non capisco cosa ti sia successo, ecco perché non parlavi solo con Eugenio e non si riusciva a capire. Vabbè, poi Gianfra mi direi se questa è completamente diversa la radio, tanto lunedì arrivo all'MC60 anche per l'altra, quindi la drone se lo mettiamo da parte, evidentemente il microfono che non va bene per quella, per la radio. Adesso sto usando l'MC60 con il 140. Sì Claudio, confermo, è sparito totalmente quella tonalità, come la vogliamo chiamare, cupa, rimbombante, eccetera eccetera. Questa è più la tua radio, in effetti sì, è così. Adesso è molto molto molto comprensibile rispetto a quella di poco fa. Poi dovresti sentire anche altre voci, ma penso che sia così, ecco. Per me questa è ottima. Io a Mario ho sentito che parlava, però la modulazione è proprio bassa, bassa, bassa. Riprendi Eugenio. Voglio una cosa a Mario. Mario, se dovessi spostare alla quiet della 131, capito? La quiet della 131, che sia che lì è tutto campo libero. Ti metti nel piazzale della quiet e ti sentono benissimo anche a Sassari, per forza. Radio sta andando a chiudere tutto fuori. Forse non ti ha sentito. Claro, l'hai sentito? Eugenio, mi sto allontanando un attimino, che devo chiudere le persiane fuori. Un attimino, riprendo dopo. Ti sei spostato? No, non vedi nessuno. Mario. Ci vuole ancora vicino. Eugenia. Io ero, te l'ho detto, ero fuori a chiudere un pochettino le imposte perché anche qua sta sempre piovendo. Ma non c'è più nessuno. Ma non lo so, perché Claudio mi è mancato di colpo. L'ho chiamata anch'io. O è mancata la luce. O l'hanno chiamato anche a lui. Tu sei in zona. Sensazione fissa, no? Non ci vogliono chiamare. Mario, ci sei? Eugè, la puoi fare una prova in FM? Sì. Vai. Ok. Proviamo qua, com'è? Va bene, lo stesso, ti ascolto lo stesso. Un po' più basso il segnale, però ti ascolto lo stesso. Di là è un'altra cosa, però, è come il giorno e la notte. Di là ti sento anche quando respiri, figurati. Qua invece è tutta una modulazione tipica della M, proprio con qualche rumorino di fondo. Di là invece sei un autotreno contro una macchina, contro una bicicletta, guarda. Vabbè, normale. Io ti arrivo basso, è normale. Che antenna hai? Già hai l'antenna sul tetto? Direi, non ce l'ho sul tetto, ce l'ho a 30 metri di distanza. Con cavo professionale. Ed è la Game Master. Non è altissima, però insomma, è su un traliccio comunque. Ah, la Game Master uguale alla mia. Anch'io la Game Master. Ma mi hai detto che eri a Monte Oro, giusto? No, sto sbagliando. Sì, io Monte Oro ce l'ho davanti. Ed è quello il problema, capito, rispetto a Porto Torres. Avendo Monte Oro che mi copre, a seconda delle zone in cui ti trovi, Monte Oro mi copre Porto Torres completamente, anche un pochino la zona di Ripunti, anche se molto meno rispetto a Porto Torres. Tutto lì. Ecco, ho capito. Va bene, dai, mi potete sentirci, un segnale, potete sentirci. Non tutto si può avere, io vedo, arrivo a vedere le montagne di Ploaghe, vedo tutto Usilo, vedo tutto Sennori, tutta quella zona è tutta coperta, quindi insomma la zona è molto buona. L'unica cosa è che avendo questa collina di Monte Oro fa un po' da schermo, ho capito, però ci arrivo lo stesso, a Porto Torres, non è che mi crei problemi proprio gravi. Poi al limite stavo pensando di spianarla, però poi Sassari si lamenta che non riceve più niente. Non ho capito, ma sì, ma con quanti watt stai usando? Io sono intorno sempre ai 5 watt, non utilizzo potenze particolari, poi l'antenna ovviamente, cioè, anche se il cavo è professionale, è quello grosso, addirittura anche subacqueo, arriva il segnale, un po' si perde, anche se poco, nel caso di questa frequenza, però insomma qualche perdita c'è. Dovresti aiutarti con un po' di watt, non si può regolare quel baracchino. Beh no, questo no, questo no. Attualmente posso aumentare credo fino a 10 watt. Vediamo un po', ci provo, No, ma vediamo un po' se cambia qualcosa. Ecco, guarda un po'. Non so se esca bene come prima, com'è adesso? Lascia stare così, non toccare più niente. No, ma perché è salita un po'? Ha voglia. Sì, sentiamo, arrivi a 5 e poi guardi 6. La differenza è poco fa, arriva a 2, quasi 3. La radio non cambia? No, no, assolutamente, la radio non cambia. A te non cambia, ma già cambia la radio. Peggiora ovviamente. Esatto, va in saturazione. Io lo sento normale, io lo sento limpido come prima. Ma ecco, non so più lontano, non lo so, però lo sento bene, lo sento benissimo. Ciao Fra. Ciao Eugenio, ciao anche Gianfranco. No, ma io lo sento io in saturazione, però se modula lì a Sassari non si capisce, magari non lo capiscono come modulando. Avanti Gianfra. Prego. Sì, registrato mi sembra Roberto. No, io lo tengo sempre basso per paura di dar fastidio alle apparecchiature, perché vicino ci sono le altre antenne. Questo baracchino costa poco, con 160 euro tenisci, lì stiamo parlando di cifre che ce ne escono 20 di questo qua, non vorrei magari disturbare la parte ricevente, che sono tutti a FET, a gas FET, quelle cose lì mi sono molto suscettibili, meglio non rischiare, quindi sono ripassato a potenze più basse e poi normali, ecco. L'importante è ascoltarsi. Ci sono due break, uno è di Roberto e l'altro non mi ricordo chi era, vabbè, poi Roberto rilancia all'altro amico. Avanti. Sì, buonasera a tutti, no, pensavo non avevate sentito. Comunque ciao Gianfranco, ciao Eugenio e ciao Franco. Break non ne ho sentito, vediamo avanti il break se c'è qualcuno che vuole entrare. No, forse ha sentito a me come sono entrato, dai, vado un breccato, sono entrato direttamente, vabbè, a gamba tesa, niente, ciao Roberto, buonasera. Ia, vai oggi. Ciao Roberto, buonasera, no, ha ragione Roberto, c'è stato un break veloce, ha fatto break e ha staccato, veloce, mi sembrava Fabrizio. Beh, se fosse Fabrizio qua arriva a 9,50, non credo proprio, a meno che non sia uscendo con mezzo watt, neanche perché arrivasse talmente forte. Buonasera a tutti. Ecco qua, buonasera, avanti. Già le doppio rondo da questa parte, vi saluto cordialmente, dai, sono qui all'ascolto. Ehi, ciao Gianni, vai Gianfra. Sì, ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Comunicazione di servizio per Roberto. Roberto, non so se te l'ha detto, ma il cavetto è fatto e pronto, è solo da collaudare. Ti ringrazio, infatti me l'ha detto, gentilissimo, a buon rendere come si dice dalle mie parti. Ok, chi c'è? Avanti Eugenio, a te. Ciao Gian, ma sei a casa o sei in macchina? Sì. Sono a casa, sto uscendo con l'apparato, quello uguale a quello che mi è venuto tu da. Ho capito. Ci può stare, che bello avere quell'apparato nuovo, mannaggia. Io quello me l'ho venduto, lo stesso tanto che l'ho pagato a te, me l'ho comprato nuovo, con gli stessi soldi. Ma non era nuovo, era come che stavo uscendo dal negozio. Sì, è vero, era nuovo. Però vabbè, ho avuto l'occasione, l'ho venduto e poi me l'ho ricomprato perché mi piaceva. Avevo ancora la pellicola nella cassa, sotto e sopra. Ehi, è vero, ma perché l'hai dato? Quello lì era bello, amico, l'apparato. Non lo so, l'ho dato a te. Io quello l'avevo comprato proprio al negozio. L'ho dato a te. Ehi, e non so che l'hai dato a me. Vabbè, il coso, l'intestazione era di una donna, invece era arrivata a Sassari e poi l'hai preso tutto. ma l'intestazione era a nome di mia moglie, che è arrivato qua col corriere. La mia moglie andiamo, certo. Cava cava. Andiamo bene, andiamo, io vado più a Rucca. Vabbè, Lucrezia, sto bene. Sì, insomma, un po' di dolore, già mi sono preso un occhio adesso. Tutta la mattina diluso, la grande, adesso si è svegliato. Perché stamattina ho preso l'occhi. Ehi già, è tempo eseguivo. Ah beh, quello se sembra di tutto. Ehi, allora, ciao anche Eugenio, Roberto se non sbaglio. E Franco la sosta arriva benissimo, cazzo, Marino Ghibar, allucinante. Perché sono preso l'appartamento vicino a casa tua? Cazzo, un segnalone c'hai, sei quasi sul più del più 30, Franco esce con 3 kg, infatti già lo credo. Ecco a te. Io sto uscendo con 10, modulati 20. Franco attaccato direttamente a 220 l'antenna, ecco perché si così. Ha rubato di lei, mi sono attaccato pure. Ah, ma con i 10.000, se scendevo con 15.000 kg ho fatto. Franco, quanto ti arrivo lì che sto uscendo con l'omologato, con 3 watt e mezzo, 4 watt? Sì, tra l'8 e il 9. Roberto, comunicazione al servizio, canale 16, un attimino. Via. Io ti arrivo, Franco, guarda un po'. Tu sei più o meno lo stesso, dai, sei 8, 8 e mezzo. Vabbè, sto scendendo, questo va da 10 watt circa, dai. Ecco. Ma voi va bene, se avete tutti i segnaloni. Tu arrivi benissimo, l'unico che arriva basso o basso è l'amico Eugenio, vabbè. Avanti Eugenio, riprendi. Luca, mi spiace che ti senti male, che mi senti piccolo piccolo. No. Lo sento, Santiago 7 e mezzo. Chi è Eugenio, da te? Eia. No, qua arriva 1, a casa arriva 5. Beh, anche tu qua non mi muovo con lo smitter. Sai, pittinato e stati pure lì, cai, un antennino sul terrazzino. Da 7 e mezzo con picchi su 8. Quanto ti arriva, Eugenio? Da 7 e mezzo con picchi sull'8. Dove vai, Eugenio? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 8 e mezzo con picchi a 9 arrivi qua. Io ci posso fare, io sono lontano. Vabbè, io c'ho buona zona per poco tosse. Buonasera a tutti di nuovo, le mando ancora X però perché c'ho gente, ci sentiamo semmai dopo. Ciao anche a Luca. Ciao, ciao Cla. Ciao Franco di Sosso, Santiago 9 sempre arrivi, ottimo segnale. Cappa, ciao Claudio. Ciao. Mi arriva più forte qua è Franco, Franco li batti tutti. Dio. E a due bassi, da te. Se scoperte l'America che ha fatto il cazzo. Ma che si cos'è quando vi mettete voi a fare controlli tra Sassari e Sassari? Siete un tinchivi? No, io non c'entro più niente con Sassari, io sono a 4 km da Sassari, quindi sono ultimamente contento della mia posizione perché mi arrivano tutti bene. Tutti, non ho problemi, sento tutti, cosa che stamattina ha chiamato Franco da dentro al ghiero in macchina e a Sassari nessuno lo sentiva e a me mi arrivava Santiago 5, quindi io sono più che soddisfatto. È chiaro che se si mettono a parlare tra di loro Latte Dolce, Gianni, Porto Torres, Sorso e Sennoi, è chiaro che non si discute, è come se io parlo con Lottieri, con Oschiri, con Claudio Di Muros che mi arriva a 9 più 40, cosa che mi arrivava a 9 e 10, è chiaro che quando sei vicino a vista ottica è un altro discorso, cioè, capito? Tutto qua. Va bene, a numero dicono Hakata come te querete, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti, passo e chiudo. Ciao Cla, vabbè un controllo con questo apparecchio Eugenio. Ecco, 9 e 5. Va bene, là. 9 e 10. Attaccato. 9.30 Claudio! Oh yeah, 9.30 Gianni, così mi arrivi. Da 9.10 si è passato a 9.30, dimmi Fra. Ma chi era? Franco Binario, quello di Pozzi Alghero? Franco Binario, sì. E allora ci ho parlato anche io con Franco. Era in macchina, in Alghero, a porto lavoro, però non lo sentiva nessuno. Io stavo facendo cosa qua, gli ho risposto, arrivava a Santiago 5, infatti come al solito dice, cazzo, sempre tu mi senti. Vabbè, io sento tutti, non mi posso lamentare veramente da questa zona qua. molto bene, va bene, dai, divertitevela, ci sentiamo più tardi se coincide, altrimenti alle prossime. Ciao, ciao. Con quello Gianni arrivi 9:10 da me, KK, già va bene, là. Sì, viene a Baribù. Sì, funziona bene già, perché tu normale qua mi arrivi a 7. Come hai attaccato 9:05 alla grande? Funziona bene quell'affare. No, ma è che sto usando un apparato omologato, magari con gli altri apparecchi ti arrivo più forti oggi, questo qui è omologato, ma gli altri sono omologati. Ma ho capito, questo non è il tuo segnale normale, quello di sempre. Va bene. Già, ma omologato stai pilotando con la farella? No, adesso no, poco fa. Ma comunque spingi anche con l'omologato già. Sono 9:10 a 9:30 è un bel me. Beh, questo qui è Superstar 3009, è omologato, con l'omologato. Ma spinge bene già, lo porta bene alla grande. Sono 9:10 a 9:30 è un bel, quindi vuol dire che funziona bene anche con quello. Con l'altro, vabbè, col Cobra non hai bisogno di attaccare nulla, che mi arrivi 9:30 o Mattesci. Va bene, va bene. Franco, sei una bombarda. Con questa antenna no, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è. 9 pieno, proprio con picchi positivi, anche più alti. E veramente, ottimamente bene. Veramente ottimo. Dai, a dopo, riprendi, fra. Scappa, ehi, va bene, va bene. Vabbè, sto usando MC60 e K, sto usando Salotto. Sì, vabbè, però già si sente che sto usando il gemello di questo, anch'io sto andando con 60, il 140, però sto andando con la Cipoll, mentre invece nel 430 c'è la Mantova, capito? Non c'è Cristo, è un altro pianeta, veramente un altro pianeta. No, ma questa estate ne la tolgo, la pulisco, la conservo. Questa cipolla metto al posto della Mantova, saranno 7-8 mesi.